La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci alla nostra ora settimanale di cinema con tanti nuovi film. Pensate, sono ben 9 le uscite cinematografiche di questo fine settimana, ovviamente con diversa densità di distribuzione, ma ci sono almeno una mezza dozzina di titoli importanti. Ne abbiamo scelti alcuni, il più possibile, per quanto chiaramente possiamo fare con i tempi che ci sono dati, ma anche facendo una selezione, come sempre, fra quelli che vogliono essere poi i consigli per i nostri ascoltatori. Quindi puntata molto densa, parleremo di novità al cinema, di novità in un video, di festival, e quindi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Cominciamo subito a riassumere i principali temi della puntata nei titoli di testa. Dopo la vittoria di 2 Golden Globe, arriva in Italia I ragazzi stanno bene, la divertente commedia su una famiglia non convenzionale, formata da una coppia lesbica e dai loro figli nati dall'inseminazione artificiale. A sconvolgere l'equilibrio familiare, arriverà il padre naturale. Maurizio è il gestore di uno stabilimento balneare e si trova quotidianamente di fronte a emergenze e stranezze di tutti i tipi. È la storia di Tutti al mare, film d'esordio di Matteo Cerami, figlio del celebre sceneggiatore Vincenzo. La commedia italiana campione di incassi arriva in home video. Esce in DVD e Blu-ray Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro. La recensione nello spazio dedicato alle visioni domestiche. Si apre la 29esima edizione del Bergamo Film Meeting, il festival più cinefil del panorama italiano. In programma una curiosa retrospettiva sulla fantascienza d'autore, dal 12 al 20 marzo a Bergamo. Lettera numero 1. Carissima me, per prima cosa buon compleanno. Oh, aiuto, compleanno si scrive con 2 N. Ho un regalo per te, spero che ti piacciano, perché sono le mie preferite, ne ho quasi 200. Oggi compio 7 anni, l'età della ragione. Questo è il compleanno più bello di tutta la mia vita. Ci sono papà, mamma, il mio fratellino e tanti signori dei traslochi. Non ci sono più i mobili, ma c'è un ufficiale giudiziario con una notifica. Sono alcune scene di un momento centrale all'inizio del film Carissima me, con cui vogliamo aprire questa nostra puntata. La prima segnalazione arriva dalla Francia, il film si intitola, come a livello di titolo originale ovviamente, L'âge raison, l'età della ragione, e questo spiega molto di più, ma per una volta l'adattamento di titolo italiano Carissima me comunque spiega, perché è una storia molto originale questa, che vede protagonista da grande Sophie Marceau, alle prese con la se stessa da piccola, ovvero una bambina di 7 anni, se stessa di tanti anni fa, che aveva scritto tante lettere che dovevano essere aperte quando appunto, e anche ricevute, quando appunto avrebbe compiuto 40 anni. È arrivato quel giorno, la Margaret, appunto Sophie Marceau, è una donna in carriera, dal pugno di ferro, gestisce una grande azienda che addirittura costruisce centrali nucleari, insomma il massimo del grosso per questa ragazza, per questa donna, che ha evidentemente un conto in sospeso col suo passato, che ha voluto a un certo punto dimenticare, cancellare, annullare quello che era accaduto. Sentivate una festa del 7° compleanno, però con gli ufficiali giudiziari in casa e con la casa che si svuotava, con una famiglia che si distruggeva. Da quell'infanzia Margaret ha addirittura cambiato qualche piccola lettera del suo nome, abbandonando il vecchio Marguerite per diventare Margaret, e è diventata una donna appunto importante. Ma a un certo punto il passato ritorna sotto forma di quelle lettere che lei stessa tanti anni prima aveva lanciato al suo indirizzo, ritorna sotto forma di un notaio che arriva, irrompe nella vita di questa donna e la mette di fronte al suo passato. Mi servirebbe solo una firma. Qui, ecco. Scusi un attimo. Pronto? Sì. Sì, 300 cosa? Milioni? Si può fare di meglio. Ok. Bene, ne ho ancora... Ok, 3 minuti e ho finito. Ciao. Allora. Si direbbe che so fare Scotti, eh? Sì, Scott. Qui scotta tutto, il caffè, gli affari e le tabelle di marcia. Già, non deve essere granché per un compleanno. Eh sì, non me ne parli. Non è sorpresa di sapere che conosco la data del suo compleanno? Deve esserci un errore, perché io mi chiamo Margaret Flora e qui c'è scritto Marguerite. Ma non è la prima volta che succede. Un errore, non mi dica. Ebbene, e qual è l'errore? Prego. Bene. Il mio treno parte alle 20:05, devo sbrigarmi. Insomma, da quel momento Margaret vorrebbe tentare di far finta di niente, però il suo passato la chiama forte, e leggendo le lettere una per una che arrivano puntualmente si rende conto di essere molto diversa da quello che aveva immaginato e forse sognato di essere da bambina. E allora, pur malvolentieri, torna sui suoi passi, torna sui suoi primi amori, torna dentro quella storia che aveva voluto cancellare e con la quale invece deve clamorosamente fare i conti. Sei diventata altro e non hai neanche aperto la lettera numero 4. Allora? Allora cosa? Papà ti ha abbandonata. Io avrei voluto, ma non ce l'ho fatta. Adesso che era a buon punto, arrivi tu a incasinare tutto. E Philibert? Philibert? Beh, Philibert mi interessa quanto il torneo annuale di bocce a su. L'ho dimenticato. E mi avrà sicuramente dimenticata anche lui, relegandomi in fondo a un pozzo. Che dire? Beh, è la vita. Forse no. Che decidiamo? Io decido che sei una bambina pazzerella, mentre io sono un'adulta responsabile. E quindi decido di rispedirti indietro. È una bella commedia sentimentale, con momenti di commozione, questo L'âge raison, carissima a me, con un clima, un'atmosfera che strizza un po' l'occhio al mondo di Amélie, ricorderete, insomma, quella rarefazione, a quella leggerezza tutta francese, e che ci propone una matura e bellissima Sophie Marceau che ha abbandonato il tempo delle mele, si tuffa nell'età della ragione, raccontandoci che tutto sommato dobbiamo sempre mantenere un po' di quello che eravamo da bambini. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma si apre con un film che ha animato molto il dibattito cinematografico degli ultimi tempi. Due Golden Globe sono arrivati per questo The Kids Are Alright, I ragazzi stanno bene, di Lisa Cholodenko, con attori davvero di rango. Adesso voglio citare il nome di un film che fra poco troveremo, che è appunto Rango, ma non c'entra nulla. Julianne Moore, Annette Bening, bentornata Annette, tanti anni che non la vedevamo a questi livelli, e Mark Ruffalo, che si sta sempre più affermando. Lei si chiama Nick, l'altra lei si chiama Jules, tra l'altro due nomi che sono anche trasformabili al maschile, non deve essere un caso. Due donne che stanno insieme, che si amano, che hanno un rapporto duraturo e che a un certo punto si trovano di fronte al loro passato sotto forma del padre naturale dei figli che hanno avuto. Insomma, le tematiche ci sono tutte. Andiamo ad ascoltare subito una clip del film. D'accordo, insomma, noi capiamo che siate curiosi del vostro padre biologico, è normale, è una cosa naturale. Ma perché non ce l'avete detto? Pensavamo che vi avrebbe ferito. Noi non siamo feriti. No, avremmo voluto solo essere coinvolte nella decisione. Tutto qui, capito? Ma l'avete incontrato e va bene. E ora possiamo andare avanti. In realtà io lo voglio rivedere. Ma dai? Sì, pensavo di dirtelo domani. Beh, no, ok? Non se ne parla. E questo è il momento della rivelazione, in cui la ragazza, appunto Johnny, studentessa modello, dice: voglio rivedere questo uomo, che irromperà nella vita di questo gruppo e, insomma, farà famiglia a modo suo. Boris Sollazzo, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, merita, i ragazzi stanno bene, il film anche? Sta benino. Devo dire che la Cholodenko, come Cameron Mitchell e Bitol, decide di fare un cambio totale rispetto al suo stile, racconta quella che è una malincommedia sentimentale molto particolare, questa famiglia molto disfunzionale, con un donatore, due donne che stanno insieme da molto tempo. Devo dire che forse, come Rabbit Hole, la grandezza sta negli attori. Tu li hai citati, sono tutti bravissimi, anche Mark Ruffalo, che di solito viene preso più per la sua bella faccia che per il talento. La regia forse è un po' troppo assente, si accontenta dell'ottimo soggetto che aveva per le mani e di tutti questi ottimi elementi, però non riesce secondo me a dare quel quintessenza in più che poteva far diventare il film un piccolo capolavoro. Ne esce comunque un buon film, un film godibile, un film che racconta una storia un po' diversa, che ti lascia con una piacevole sensazione, alla fine di tenerezza e divertimento. E questo per quanto riguarda, allora, I ragazzi stanno bene, dicevamo tra l'altro un film che abbraccia molte tematiche, spesso quando si va su questo tipo di tematiche non è sempre facile riuscire ad essere universali. In questo caso l'operazione riesce e ne parla, in questa breve dichiarazione, una delle attrici, Julianne Moore. You know, the movie is about so many things. It's about who you are. Il film parla di tante cose, di chi sei tu, di come si cresce nelle relazioni, di come trovi te stesso, di chi ami, del perché ami quella persona. Si parla di tutte queste cose e penso che sia per questo che è un film molto dinamico. Dicevamo prima del ritorno di Annette Bening, che per carità ha lavorato anche negli ultimi anni, da Modern Child a The Women, ma insomma che ricordavamo soprattutto negli anni 80 e 90, quando da rischiose abitudini a indiziato di reato, a Bugsy, a Regarding Harry, insomma era un volto femminile importante di un cinema mainstream americano fatto di grandi attori. E allora cosa è significato lavorare con questa attrice? Lo spiega così Julianne Moore. We didn't know each other. We'd met, you know, I think... Anche se ci eravamo incontrate anni fa in occasione di altri eventi, non ci conoscevamo. L'ho sempre ammirata come attrice perché penso che abbia un grandissimo talento. Entrambe siamo sposate con figli e quindi la nostra situazione reale era molto simile a quella del film. Ci siamo sentite subito attratte dalla storia. Parliamo di animazione invece adesso, Boris, perché arriva nelle sale un film ad animazione, appunto, che si intitola Rango e che ha tanti motivi di originalità. Innanzitutto un western, un vero e proprio western che ha per protagonista un camaleonte. E già qui siamo nel surreale. Nella versione originale Rango è niente meno, nella voce almeno, che Johnny Depp, e anche qui è un coinvolgimento importante, ma soprattutto la regia è quella di Gore Verbinski, insomma, di un regista che sicuramente non legavamo pienamente all'animazione, anche se coi Pirati dei Caraibi un po' l'aveva fatta, ma aveva anche fatto tante altre cose molto diverse a partire da The Ring, uno dei film d'animazione più originali degli ultimi tempi. Assolutamente d'accordo, un piccolo gioiello, un film di rango, perdonami la battuta, perché non voglio scomodare paragoni illustri, anche perché insomma lo stile chiaramente è diverso, ma se l'animazione aveva bisogno di un suo Sergio Leone in piccolo, l'ha trovato in Gore Verbinski. E uno non se lo aspetta, perché nei primi minuti, anche con questo nome, hai l'impressione di vedere una sorta di carosello, no? Arriva Rango, arriva Gringo, siamo un po' su quell'aspetto. Poi il film cresce fino almeno a tre quarti del film, tu ti ritrovi di fronte a un western che mette insieme tutte le mitologie, da quella di Clint Eastwood, lo straniero senza nome compare in un trip molto particolare per arrivare appunto a Sergio Leone. Riesce a tenere tutto insieme con una carica comica di questo rango, di questo camaleonte che sembra un po' Jerry Lewis, e anche se alla fine tutte queste carte messe sul tavolo sono forse un po' troppe e nell'imbuto del finale si perde un po', il film rimane, secondo me, come hai detto tu, la cosa più originale che l'animazione ha offerto negli ultimi tempi, e ringraziando Dio per una volta l'animazione negli ultimi 2-3 anni non approfitta del 3D per gonfiare un film che non ha bisogno di essere gonfiato. Chi è quello? Lui è Rango. Non ha paura di nessuno. Ma davvero? Li vede, signor Rango? La gente deve credere in qualcosa. La prenda. Il suo destino l'attende. Tu ci salverai, vero? Contaci, sorellina. Sceriffo, abbiamo un problema. Questa è la mia città. Ti hanno portato via pure la camicia. Allora, volete qualcosa in cui credere? Credete in quel cartello? Perché finché sarà appeso lì, noi avremo speranza. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana. A presto, grazie. E allora, abbiamo chiuso almeno per il momento, momentaneamente per qualche secondo, la parentesi delle novità. Fra poco parliamo di Holy Water. Prima però invece apriamo la prima finestra sul DVD Game di questa settimana. Giochiamo con un film in alta definizione in Blu-ray, ascoltiamo la prima clip. Aveva ragione, la California è il posto giusto per noi. E chi sei, il principe di Bel Air? Non sapevo di essere il principe di Bel Air in Brasile. Hai visto, siamo molto avanti. Per chi è il posto giusto? La California, la rosa purpura a @radio24.it per provare a indovinare di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Una copia in palio per il sabato, un'altra per la domenica più tardi. Altre possibilità. Le atmosfere irlandesi di queste musiche ci introducono in un altro film, un'altra novità che arriva nelle sale italiane, una commedia irlandese che si intitola Holy Water, cioè l'acqua santa. Ancora una volta un cinema fatto di grandi location, di un'Irlanda bellissima e periferica, di un piccolo paesino nel quale quattro scapoli non trovano orizzonti, non trovano sbocchi, e a un certo punto decidono di fare il colpaccio, visto che da quelle parti passa quotidianamente un camion che porta niente meno che carichi di Viagra che si produce lì vicino. E allora l'idea è chiara, è lampante: come fare a uscire? Come fare ad andarsene via? Bene, facilissimo. Travestirsi, rubare il camion del Viagra, portarlo ad Amsterdam e vivere felici per tutta la vita con i frutti di questa rapina. Non mi ero mai vestito da suora, e tu? Mi sento come un pinguino cazzone. Però non ci stai male, potresti fare la madre badessa. Mani in alto! Cosa? Delle cazzo di suore che ci vogliono rapinare. Guarda, sono fuori! Armato. Aprite e unite spalle! Fuori! Scendete da fuori! Attiva il transponder, io faccio marcia indietro. La scena della rapina, che insomma avrà alla fine esito positivo, il problema è che poi c'è da gestire questo malloppo, questo quantitativo industriale, letteralmente industriale, di Viagra, e il problema è quando la mitica pillolina azzurra finisce a intasare, a inquinare, possiamo dire inquinare, forse ad arricchire, chi lo sa, dipende dai punti di vista, le acque del paese. Viene bevuta praticamente da tutto il paese, che si trasforma in un grande paese dell'amore. L'hai trovato? L'asciugamano? Sì. Ti serve aiuto? Proprio così. Oh! Qualcosa non va. Ho paura di essere un po' incordato. Incordato? Sì. Adesso vediamo se riesco a scioglierti. E insomma, avete sentito, le atmosfere sono quelle appunto della commedia irlandese, mi viene in mente Svegliati Ned o L'erba di Grace, insomma siamo da quelle parti cinematograficamente, anche se qualcosina di scontato ogni tanto fa capolino nelle pieghe del film, che tutto sommato poteva forse portare a un lievito maggiore, insomma a un esito, a un exploit maggiore, però è un film godibile che tutto sommato fila via liscio e che ironizza su uno dei temi da una parte tabù e dall'altra mitizzati della nostra epoca, quella della potenza sessuale maschile. È Holy Water nei cinema italiani. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, terza parte del nostro programma. Una proposta italiana arriva nelle sale, una proposta che ha molti motivi di interesse. Intanto il cognome del regista, Matteo Cerami, e quando si dice Cerami in Italia si dice molto, perché viene chiaramente subito in mente il nome di Vincenzo, grande scrittore e sceneggiatore a cui dobbiamo gli script di film importanti. Ha collaborato Cerami con registi del calibro di Bertolucci, Bellocchio, Pasolini, e come non dimenticare ovviamente l'episodio della Vita è bella con Benigni, ma anche un romanzo come Un borghese piccolo piccolo. Una grande mano, insomma, quella di Vincenzo Cerami, ma il figlio Matteo si è cimentato invece con la regia di un film che si intitola Tutti al mare, e che, lontano da un titolo solare, quasi commediaro, che vorrebbe quasi echeggiare un cinema tutto Frizzi e Lazzi, confeziona una commedia amara, una commedia che tra l'altro ha un suo progenitore piuttosto nobile, che è un film degli anni 70, si intitolava Casotto. tutto. Lo firmò nel 77 Sergio Citti, e tra l'altro con la sceneggiatura anche di Vincenzo Cerami, che ha scritto anche insieme al figlio questo film. In quel film c'erano Jodie Foster, Paolo Stoppa, Michele Placido, un giovanissimo Michele Placido, ma poi si andava dalla Melato a Tognazzi. Era un film corale, come anche questo, un film corale, tutto ambientato in una calda domenica d'agosto in riva al mare, dove il mare fa un po' da amplificatore delle tipologie umane dell'Italia di allora, per Casotto, e di oggi, per Tutti al mare. Allora noi abbiamo spedito al cinema a raccontarci questo film la nostra Chiara Pizzimenti. Apri ombrelloni, va. Oggi c'è il sole, gli diamo spella a tutti. È così che Maurizio Marco Giallini apre ogni mattina il suo chiosco sul mare, dà ordini ai lavoranti, tutti immigrati, e sistema la madre, Ilaria Occhini, in sedia a rotelle nel locale. Da qui aspetta clienti e bagnanti, la varia umanità di una giornata estiva, a partire dal pescatore di surgelati. Ma che mi porti dietro, te altri? Che te lo di? Questi estate vanno al mare, Lei si è rotta il cazzo di lui perché lui fa schifo. Oh. Lui non ci sta. Allora tu, che farebbe? Chi? Te. Che farei? Sì, tu, che farei? Chiacchiere da spiaggia sulle vite degli altri. C'è il giovane lasciato dalla moglie russa, la divetta della TV, il cleptomane smemorato, lo iettatore, il suicida, invitato ad andare a morire un po' più in là, vigili, finanzieri e carabinieri che minacciano controlli e si fermano a pranzo gratis, fino a sera, quando il chiosco diventa un ristorante elegante. Numa Pompilio, Dullo Stilio, Anco Marzio, Sergio Citti, Servio Tullio e Tarquino e Superboli Portacci, sono mai ricordavo. E per questo ho fatto il nodo al coso. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Una sola location, Castel Porziano, sul litorale laziale, tanti interpreti, Anna Bonaiuto, Ambra Giolini, Gigi Proietti, Ennio Fantastichini, Libero di Rienzo, per raccontare, con alcune situazioni indovinate e qualche stereotipo di troppo, l'Italia di oggi. Vincenzo Cerami, qui anche nel ruolo di attore, firma la sceneggiatura insieme al figlio Matteo, che esordisce come regista. Il riferimento ideale è Casotto, film di Sergio Citti del 77, scritto anche da Cerami padre. Alla regista di questo film, Matteo Cerami, abbiamo chiesto cosa resta di quella pellicola. Lo spirito è quello che è stato, diciamo, facile comunicare poi agli attori, lo spirito di una commedia amara, coralissima ancora di più perché lì c'erano 12 personaggi, io ne ho più o meno 30, che appunto si divertisse a fare dei ritratti di mostri, però raccontarli con affetto, insomma, con un po' di compassione, ecco, non solo cinismo. Questo rimane di Casotto, e che cosa invece cambia rispetto a quel film? Io ho cercato di rovesciare un po' quella idea di Sergio Citti, di raccontare un film dentro una stanza di 10 metri quadrati. Voleva raccontare le nudità dei personaggi anni 70 che cominciavano a vestirsi di modelli, di miti, di maschere, e all'interno di quel casotto si spogliavano e ritrovavamo dei corpi, delle creature, insomma, con dei rituali assolutamente antichi e eterni. Qua invece ormai siamo nel 2010, l'identità è sparita, i rituali sono assolutamente meccanici, sono dettati da esclusivamente le mode, si è persa molto di quella creaturalità, quindi avevo bisogno di raccontare un film di ritratti di persone che le maschere non potevano proprio toglierle. E quindi ho trovato un chiosco che invece di essere chiuso era al contrario completamente aperto. Ed era Matteo Cerami al microfono di Chiara Pizzimenti qui per La Rosa Purpurea e per l'uscita in sala di Tutti al mare, film appunto, come dicevamo, commedia corale, anche qui con un cast infinito che mette insieme attori di grande interesse come Marco Giallini, come Libero De Rienzo, come Ambra Angiolini, Ennio Fantastichini, solo per dirne e citarne alcuni. Siamo alla seconda finestra aperta sul nostro Blu-ray game, anche questa settimana giochiamo con l'alta definizione. Ascoltiamo la seconda traccia. Conosci Peter Thiel? No. Perché dovresti? Gestisce solo un fondo di investimento da 2 miliardi di dollari. Perché fissa appuntamenti? Forse accettano un finanziamento di startup. Anche fosse il finanziamento di Star Trek, perché fissa appuntamenti? Avete già sentito dei nomi, eh? Quando si cominciano a fare dei nomi le cose diventano abbastanza facili. La Rosa Purpurea, @radio24.it, scriveteci di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come sempre inserite il vostro indirizzo privato per accelerare, eventualmente siate voi i vincitori, le operazioni di spedizione del film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Parliamo adesso di un festival, abbiamo esaurito la ampissima parentesi dedicata alle novità in sala, che poi sono sempre il cuore della Rosa Purpurea, però non vogliamo dimenticarci anche di quello che accade nei festival che animano poi la proposta culturale legata al cinema, perché ormai purtroppo lo diciamo spesso, il nostro cahier de doléances in questo è piuttosto ricco da queste frequenze, insomma le sale soffrono, soprattutto le sale d'essai, benemerite, resistono con grande orgoglio e con grande coraggio molto spesso, però insomma un po' schiacciate da una distribuzione che rischia di non far arrivare nei nostri cinema i film che più innovano, che più rischiano, che più osano, che spostano avanti l'asticella del linguaggio cinematografico. Questo compito continuano ad assolvere anche loro con tanta fatica e tanto coraggio molti festival. Io sono affezionato, molto affezionato personalmente a questo festival di cui voglio parlarvi oggi, che è il Bergamo Film Meeting, giunto alla 29esima edizione, insomma vicino ai 30 anni. Sono molto affezionato perché trovo che sia il festival o uno dei due o tre festival di maggiore qualità cinematografica, di cinema senza compromessi, di proiezioni di copie straordinarie, spesso restaurate, con relazioni con tutte le grandi istituzioni cinematografiche del mondo, dal British Film Institute che ogni anno manda copie strepitose, quest'anno per esempio dei film inglesi di Hitchcock. Ecco, insomma, è davvero una settimana, anzi sono in realtà 8 giorni, 9 giorni di grande cinema e di abbuffata che ci si può fare senza mai davvero annoiarsi, perché la proposta è sempre molto varia. Un concorso, 8 film di prime o seconde opere, quindi insomma di giovani registi che giungono da tutto il mondo, e poi tante retrospettive straordinarie. Quest'anno voglio citarne velocemente alcune. Si va appunto dal ciclo inglese del primo Hitchcock alla scoperta di una grande animatrice, la portoghese Regina Pessoa. Saranno davvero rivelazioni i suoi piccoli film come Storia tragica con Finan Feliz, senza dimenticare i film per esempio dell'est europeo dopo la caduta del muro, quindi dal 90 a oggi, i film come Goodbye Lenin, ricordate quel titolo che raccontava un po' la cosiddetta ostalgia, cioè la nostalgia dell'ex vita, delle vite che si faceva nel mondo comunista, che era una nostalgia legata al nostro passato, ovviamente più che a magari a cose assolutamente gravi come la mancanza di libertà o alcuni altri aspetti più politici. Però c'era poi la quotidianità che la caduta del muro si è portata via, e questo raccontava quel film, Goodbye Lenin. Questo hanno raccontato spesso i film della Bulgaria, della ex Repubblica, della Repubblica Ceca, ex Cecoslovacchia, dell'Ungheria, eccetera eccetera, in tono sempre di commedia magari amara, e questi film li vedremo a Bergamo in una sezione particolare. Ma quello su cui vogliamo soffermarci è davvero una chicca: la fantascienza d'autore, perché ci sono tantissimi registi, autori, grandi autori cinematografici. Faccio dei nomi clamorosi, da Truffaut a Godard, da Marco Ferreri per esempio a Fassbinder, nomi che non associeremmo mai a un'esperienza fantascientifica e che invece si sono misurati a loro modo, ovviamente con una fantascienza che magari non aveva le astronavi o le guerre stellari, ma che era dentro di noi. Pensate a un film come Fahrenheit 451 di Truffaut, piuttosto che ad Alphaville di Jean-Luc Godard. Ecco, la fantascienza d'autore, le incursioni in un ambito fantascientifico dei grandi maestri che hanno fatto la storia del cinema, saranno protagoniste di una retrospettiva davvero molto interessante a Bergamo. Vi ricordo le date del festival, dal 12 al 20 marzo. Abbiamo parlato proprio di questo con il responsabile di questa creazione, Angelo Signorelli. È una fantascienza molto molto particolare, nel senso che non è ancora la fantascienza come viene intesa oggi, quindi grandi effetti speciali, grandi spostamenti anche spazio-temporali. Sono per lo più film collocati nel mondo contemporaneo da allora, quindi usando delle scenografie che non hanno niente a che fare con dei mondi immaginati o futuribili, non so, Favice alla Parigi. E c'è una Parigi magari vista con un occhio un po' noir. La stessa cosa per il film di Fassbinder, che tra l'altro è un'anteprima italiana di questo restauro che ha fatto la Fassbinder Foundation, e che è un film che è di una bellezza straordinaria, di una tensione anche, ed ha molte affinità con il film di Godard, dove c'è questa figura di agente che non si capisce bene, che è travestito da scienziato, non si sa se è uno scienziato o una sorta di agente speciale che deve comunque indagare sulla scomparsa di qualcuno. Ma lo stesso Lucas non è un film a cui ci hanno abituato, non è un'epopea, non è semplicemente un film che si è molto compresso anche dentro ambientazioni molto chiuse, molto, molto dominate anche, perché poi il film richiama molto questa presenza, questa specie di trascendenza che però domina e comanda questi personaggi, che tra l'altro sono identificati da una sorta di targa, di numero, quindi non hanno più neanche il nome. E quindi è una fantascienza più mentale, non so come dire, più interiore, che quindi cerca di andare dentro nella testa dei personaggi e di capire anche quali sono le vie di fuga. Angelo Signorelli, Bergamo Film Meeting, 12-20 marzo a Bergamo, in pieno centro, tutti i programmi, tutte le proiezioni ovviamente le potete recuperare sul sito internet del festival. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo alla quarta e conclusiva parte del nostro programma, che come sempre comincia a vedere un po' quali sono i film da recuperare in casa attraverso l'home video, attraverso la televisione. Consueto break nei palinsesti televisivi della prossima settimana per cercare i film che vale la pena vedere o rivedere in chiaro e ovviamente gratuitamente. Cominciamo con le segnalazioni degli amici del settimanale Film TV e sentiamo cosa ha scelto Sara Sagrati. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV, che questa volta sono molto particolari perché spaziano dalla storia ai sogni, e cominciamo con i sogni che ci piacciono molto. Su Rai 5 alle 21.10 di martedì 15 c'è proprio L'arte del sogno di Michel Gondry, una operazione artigianale del cinema in cui gli effetti speciali sono costruiti come cavalli di pezza o scatole di cartone che diventano castelli, per rappresentare quel momento della vita di ognuno di noi che sta tra lo stare per addormentarsi o lo stare per svegliarsi, in cui immaginiamo amori, sogni, aspirazioni, tutto quello che ci vogliamo mettere. Felice, bellissimo, ma anche molto triste, c'è un amore sognato, un amore impossibile, che però fa sognare anche noi e quindi adoriamo riguardare. Capolavoro assoluto del cinema di Gondry, L'arte del sogno, martedì 15 marzo alle 21.10 su Rai 5, digitale terrestre. E poi, ha detto Sara, La grande storia. Sì Franco, quindi passiamo alla storia, e che storia, nella settimana delle grandi festeggiamenti per l'Unità d'Italia ovviamente non poteva mancare 900, che andrà in onda sulla 7D mercoledì 16 e giovedì 17, i due atti rispettivamente, uno alle 23.10 di mercoledì e uno alle 23 di giovedì. 900, atto 1, atto 2 di Bertolucci, Sava Sandir lo conosciamo tutti, è il grande ritratto della storia d'Italia, diciamo della prima parte della nostra grande Unità d'Italia, sia la prima ma anche soprattutto la seconda dopo il fascismo, ma anche storia del cinema in quanto tale. Grandissimo cast, De Niro, Depardieu, Sandrelli, Dominique Sandà, Lancaster, chi più ne ha più ne metta, in un ritratto che è sì storico ma anche melodrammatico, in cui la vita di due amici, l'uno capo fattore e l'altro operaio nella fattoria, nella loro amicizia, nel loro rapporto, nei loro rapporti d'amore, viene raccontata la nostra storia d'Italia, la nostra unità e soprattutto la nostra disunità, che riesce poi a diventare tale nell'unità, appunto. Forse non c'è più niente altro da aggiungere se non guardarlo e magari riflettere un po' su cosa siamo diventati dopo. E anche su cosa è diventato il cinema italiano, che sapeva produrre questi capolavori in quegli anni. 900 di Bernardo Bertolucci, mercoledì 16 marzo alle 23.10 e giovedì 17 alle 23 su La 7D. Grazie Sara! A presto e a risentirci la prossima settimana. E allora a questo punto andiamo invece alla terza e conclusiva traccia misteriosa del Blu-ray game di oggi. Sappiamo che ci ha fregato l'idea e che ci ha detto chiaramente un sacco di balle. No, non ci ha mai detto balle. No, non ce le ha dette in faccia, ma le ha raccontate alle nostre mail e si è preso 42 giorni di vantaggio, perché sa quello che a quanto pare tu non sai, e cioè che conta solo arrivare primi. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, cinema recente, un film che ha ricevuto recentemente allori importanti. Il vostro indirizzo privato nella mail per provare ad accelerare le pratiche in caso siate i vincitori, anche se mi sembra che qualcuno ha già indovinato. Allora, 7 giorni fa avevamo sentito questa traccia. Alice Bottolato, Alice Arreganato, Fusilla Raù e Fichi Bianchi del Cilento. E allora, ci consoliamo? Non capisco. Assaggiare tutto un po'. Avevamo giocato con uno dei film campioni d'incasso di questa stagione miracolosa della commedia italiana, Benvenuti al Sud. L'avete indovinato in tanti, ma i più veloci del sabato e della domenica sono stati Alessandro Zimei e Marco Crimaldi, che riceveranno il Blu-ray di questo film. Grande incasso al cinema, grandi aspettative anche in un video. Ce ne parla Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'uscita sia DVD che Blu-ray, alta definizione per il successo di Medusa Film, sicuramente ottima qualità sia per il video che per l'audio, soprattutto per il Blu-ray che ha sicuramente maggiore profondità di campo e offre solidità per le immagini, tra l'altro in più offre la traccia DTS ad alta risoluzione contro la Dolby Digital del DVD. Gli extra per le due uscite sono identici, tra cui segnalo sicuramente questo simpatico backstage, ma ci sono anche scene omesse dal montaggio finale. E questo per quanto riguarda allora Benvenuti al Sud. A questo punto noi andiamo alle recensioni e parliamo di Breakfast Club. Bene, oggi ci sperimenteremo su qualcosa di diverso, il che significa che dovrete svolgere un tema con almeno 1000 parole. Descrivetemi chi pensate di essere. È un esame? Non ho detto che è un esame. È il 1984, 5 sedicenni allievi di una scuola superiore di Chicago si trovano per motivi diversi in punizione, e punizione da passarsi di sabato nella biblioteca della scuola. Il preside, come abbiamo sentito, costretto a sorvegliarli, assegna loro un tema in cui scrivere di se stessi, sperando che in qualche modo lo scritto li possa aiutare. I cinque inizialmente si scontreranno, ma poi si apriranno reciprocamente raccontandosi dietro la maschera. Cult movie, commedia anni 80 del compianto John Hughes, che dipinse con estro e umanità sicuramente i sogni e frustrazioni di più di una generazione. L'uscita Blu-ray da Universal è di qualità superiore rispetto al vecchio DVD, la grana si fa spesso sentire, ma il risultato è sicuramente piacevole. Traccia DTS in italiano e addirittura DTS ad alta risoluzione per l'inglese, ci sono alcuni extra, tra cui segnalo il commento di due degli attori principali, Anthony Michael Hall e Judd Nelson. Due cuori e una provetta, invece, commedia leggera, frizzante e anche molto recente. Perché per te è così difficile da accettare? Sono stanca di aspettare una versione migliore della mia vita che potrebbe non arrivare mai. Va bene, non era questo il piano originario. Non sono cresciuta in Minnesota sognando il giorno in cui mi sarei messa a cercare un donatore di sperma su un sito di annunci. Ma eccomi qui, sta succedendo, mi fa paura e non posso contare su di te. Amici da sempre, Wally e Cassie sono due newyorkesi quarantenni. Lei però è stanca di aspettare l'uomo giusto e decide per l'inseminazione artificiale. La scelta cadrà su Roland, fisicamente e intellettualmente superiore a Wally, nevrotico e ipocondriaco, che, ubriaco, finisce per scambiare il suo seme con quello del donatore. 7 anni dopo Cassie si presenta col figlio e Wally non può fare a meno di notare l'incredibile somiglianza. Commedia a tratti briosa, anche se con personaggi un po' piatti, una storia che tutto sommato non convince sino in fondo. L'uscita da Mondo Home Entertainment del DVD, ma c'è anche il Blu-ray, entrambi di buona qualità, c'è un po' di grana. Il Blu-ray offre in più la traccia DTS ad alta risoluzione in inglese, superiore alla speculare in italiano, perché c'è comunque una diversità di codifica. Tra gli extra segnalo il finale alternativo e un divertente making of. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. Siamo arrivati in fondo alla nostra corsa con la Rosa Purpurea, con la nostra ora settimanale di cinema. Settimana prossima, vi ricordo, altre uscite importanti e copiose, film che potranno fare irruzione nelle zone alte della classifica, occupate per il momento ancora da due film italiani, Manuale d'Amore 3 di Giovanni Veronesi e La Vita Facile di Lucio Pellegrini. Ma dicevo, settimana prossima sarà la volta, da una parte, del remake discusso, molto discusso, di amici miei, qualcuno ha parlato di lesa maestà, forse anche con qualche ragione, dall'altra invece di Nessuno mi può giudicare, una commedia particolarmente azzeccata, invece firmata da Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Raul Bove e Rocco Papaleo. Insomma, ancora cinema italiano sugli scudi, ci sarà spazio per parlare la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea, il sabato alle 18, la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.